porto uno scarafaggione. No, esatto. Ho ben presente il maialone perché ogni volta che mi fermo agli autogrill vado lì a schiacciarlo, no? I topi ballano. Eccola là. Quando il gatto non c'è, il gatto befera, chiamiamolo così. Qua ti volevo, cara mia, però ti posso dire. Che cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. Sono anche uno sgranocchiatore. Mi piace, Antonio. Un topolone. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tutto cambierà, cambierà, sai che cambierà, cambierà. In questi giorni stiamo parlando di ipotesi, di novità che però cambiano di ora in ora: gli 80 euro alle neomamme, la tassazione, la pensione il 10 del mese, poi di nuovo il primo, insomma tanti cambiamenti in corso d'opera. Anche se l'origine di tutte queste notizie si chiama disegno di legge di stabilità, di stabile sembra avere proprio poco. Eppure, in tutto questo movimento un punto fermo ci sembra di averlo trovato. Il disegno di legge prevede infatti anche la proroga a tutto il prossimo anno della detrazione IRPEF del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, sui mobili, sui grandi elettrodomestici, e di quella IRPEF e IRES del 65% sui lavori per il risparmio energetico. Insomma, care amiche, cari amici, il bonus casa, il bonus mobili, di cui tante volte abbiamo parlato a cuore denari, non cambiano, almeno per ora, e noi questa buona notizia non ce la siamo fatta certo scappare, e ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Quindi andate a fare un giro per la vostra casa, naturalmente alzate il volume di Radio 24, guardate quello che vi piacerebbe cambiare, e poi 800 24 00 24 per parlarne con noi. Vince, io mi uccido. No, non voglio pietà, non voglio compassione. Io mi uccido. Meglio un giorno da leone, Vince. Meglio 100 giorni da pecora. Meglio un giorno da leone, no? Signore, non sono io, meglio un sacco da pecora e da leone. Fai 50 giorni da stracchiotto. Me ne stai in mezzo, non fai la figura in mezzo da pecora. E nemmeno un leone, però, campione. Ve lo ricordate, scusate il ritardo, con un magnifico Massimo Troisi, ma noi non di leoni, orsette, pecore, ma di gufi allodole parleremo oggi, questo weekend. L'abbiamo letto, l'abbiamo sentito, lo sappiamo, insomma, torna l'ora solare. Nella notte fra sabato 25 e domenica 26 ottobre dovremo tutti spostare le lancette un'ora indietro, quindi potremo dormire un'ora in più. L'idea com'è? Vi piace? In pratica però recuperiamo l'ora che abbiamo perso nel passaggio all'ora legale. Insomma, ci stiamo preparando ad affrontare un piccolo, piccolissimo jet lag, pur restando in pantofole a casa nostra. Non tutti reagiremo allo stesso modo, d'altronde il mondo è bello perché vario, ma per semplificare possiamo dividerlo in due grandi gruppi, i gufi e le allode, le due pennuti, che raccontano due diversi ritmi con cui affrontiamo le giornate, intese come alternanza di luce e di buio. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Non è un etologo, nonostante parliamo di pennuti, ma un esperto di sonno. Professore, intanto scegliamo il pennuto. Ma allora, innanzitutto possiamo dire che con l'arrivo dell'ora solare, dormendo un'ora in più, saranno molto contenti i gufi, almeno per un giorno. Proprio perché i gufi sono coloro che tendono ad andare a letto molto tardi la sera e svegliarsi più tardi al mattino, cioè quelli che hanno sostanzialmente l'orologio spostato in avanti. Ecco, i gufi, che erano quelli che avevano sofferto con l'arrivo dell'ora legale, ecco, invece domenica mattina saranno molto molto felici perché guadagneranno, dormiranno un'ora in più e quindi avranno sicuramente una giornata migliore. Mentre le allodole, pazienza. Per le allodole sono sostanzialmente proprio il contrario, cioè perché le allodole erano molto felici con l'arrivo dell'ora legale e saranno un po' di meno con il ritorno all'ora solare, proprio perché saranno in una qualche maniera costretti a restare a letto un po' di più, e si sa che le allodole al mattino non stanno volentieri a letto, perché alle 5, alle 6 del mattino sono già pronte, pimpanti per affrontare la giornata. Fin troppo pimpanti. Il problema è, intanto Carmelo Lauricella, lo ringrazio, in regia la parte tecnica, ci faceva sentire il suono di allodole e gufi, ma il problema è quando un gufo e un'allodola si incontrano, professor Ferini Strambi. Ma certo, è un grosso problema, perché non avere la coincidenza del ritmo nelle due persone che vivono insieme, insomma, ecco, non è una cosa positiva. Ecco, più che segno zodiacale si dovrebbe chiedere, prima di iniziare qualunque storia, se il gufo allodola. Assolutamente sì, è una cosa quella di chiedere appunto di che cronotipo sei, no? Quindi qual è il tuo orologio biologico interno. Questo non è una cosa, diciamo così, irrilevante, anche perché purtroppo gufi allodole si nasce e si mantiene questa cosa comunque sì, anche con magari dei tentativi di aggiustamento, ma lo si mantiene per tutta la vita. E quindi ci sono veramente delle persone che si vedono poco e si frequentano poco, pur essendo follemente innamorate l'una dell'altra, proprio perché hanno un cronotipo diverso, hanno un orologio diverso. Allora, 800 24 00 24 per raccontarci se siete gufi e allodola, e se vivete magari con un cronotipo diverso da voi, e quali disagi questo comporta. Ma oltre a sapere quando andate a letto la sera e a che ora vi svegliate la mattina, che il professor Ferini Strambi ci aiuta a capire a quale cronotipo apparteniamo, credo che possa essere utile avere anche informazioni su come ci svegliamo al mattino. Siamo freschi e riposati e invece facciamo fatica, ma nel giro di poco riprendiamo il passo, invece carburiamo molto lentamente. Insomma, ci svegliamo, siamo veramente efficienti a metà mattina. Raccontatecelo, potete naturalmente aggiungere le vostre storie, anche perché professor Ferini Strambi, il momento del risveglio, racconta tante cose un esperto del sonno, e così ci vuole un po' aiutare. Partiamo da chi si sveglia stanco. Potrebbe essere un gufo, ma non è detto, potrebbe essere anche un'allodola, ma potrebbe essere anche un soggetto che, ahimè, dorme, e queste sono le situazioni che noi spesso vediamo, soggetti che dormono 7, magari anche 8 ore, ma che si alzano non riposati al mattino. Le cause possono essere tante, e questo è un aspetto importante, perché ci ricorda che tutto sommato noi pensiamo sempre al tempo totale che passiamo dormendo, ma in realtà non è soltanto importante il tempo totale di sonno, è anche importante la qualità, come dormiamo. E qui allora a volte è necessario fare appunto quell'esame che noi facciamo, che si chiama polisonnogramma, che è un esame che, diciamo così, ci consente di vedere com'è proprio tutta l'attività, non soltanto del cervello, ma anche del respiro, del cuore, dei movimenti durante la notte, proprio per cercare di capire perché. Faccio un esempio molto semplice. Sì. Noi sappiamo che durante le prime 2 ore, 3 ore del nostro sonno notturno, noi abbiamo la capacità di fare tanto sonno profondo, quel sonno caratterizzato proprio da la presenza di queste onde elettroencefalografiche molto ampie, lente, cioè quindi proprio il soggetto, potremmo quasi dire, va quasi in coma, no? Cioè proprio perché ha la parte più profonda del sonno. E allora, ad esempio, noi sappiamo benissimo che ci sono dei soggetti che purtroppo questo sonno molto profondo nelle prime 2 o 3 ore di sonno non ce l'hanno. E quindi allora se si fa un esame specifico per vedere questo, poi si scopre che dormono sì, ma non dormono in maniera profonda, soprattutto nelle prime ore di sonno, e quindi questo comporta il fatto che al mattino si sentono stanchi. Per non citare poi ad esempio i soggetti che hanno le apnee o che russano molto durante la notte, questi soggetti spesso hanno tanti micro risvegli di cui non si accorgono assolutamente, ma che vanno poi chiaramente a creare comunque una sorta di sonno non riposante, a volte i soggetti dicono: sono quasi più affaticato e stanco al mattino quando mi sveglio piuttosto che quando vado a letto la sera. E quindi ecco, queste sono tutte cose che dobbiamo tenere in considerazione. E lo vogliamo fare insieme ai nostri ascoltatori che stanno chiamando l'800 24 00 24. Tra poco passeremo le loro naturalmente telefonate, quindi gufo, allodola, come vi preparate ad affrontare anche il cambio dell'ora, quando andate a letto la sera, quando vi risvegliate al mattino, ma soprattutto vogliamo oggi anche capire, approfittare dell'occasione per raccontare un po' la qualità della nostra giornata, che è un po' lo specchio, la cartina tornasole della qualità del nostro riposo. Abbiamo parlato di chi si sveglia al mattino stanco, ma c'è chi si sveglia, professor Ferini Strambi, pimpante, ma nel giro di un'oretta è già scarico. È una allodola mancata? Questo sicuramente la sensazione che si ha al mattino quando ci si risveglia è molto importante, perché ecco, teniamo conto che se noi vediamo dal punto di vista proprio metabolico quello che fa il nostro cervello, l'allodola al mattino impiega pochissimo tempo per riattivare tutte le aree cerebrali, quindi l'allodola sostanzialmente veramente in pochi minuti è già in grado di affrontare la giornata in maniera, diciamo così, ottimale. Mentre purtroppo il normale, il soggetto quindi che non è né gufo né allodola, a volte può impiegare anche, per dire, anche mezz'ora, tre quarti d'ora per riattivarsi, ma poi ci sono purtroppo invece i gufi che a volte impiegano anche 3-4 ore prima di riattivare completamente il cervello, e questo ha delle implicazioni molto importanti. Non so, pensiamo anche semplicemente a un gufo che svolge come lavoro l'insegnante, no? E si trova a dover insegnare ai ragazzi alle 8 del mattino la prima lezione, ecco, sicuramente non avrà la grandissima capacità di trasmettere quello che deve trasmettere, proprio perché il suo cervello in quel momento non è assolutamente attivato come dovrebbe. Lei, professor Ferini Strambi, mi ha dato uno straordinario assist che mi permette di dire anche ai nostri ascoltatori che parleremo anche di chi non solo cambia, deve cambiare l'ora, ma cambia proprio il giorno con la notte, dovendo fare dei lavori a turno. 800 24 00 24, se siete turnisti. Ma andiamo anche da Rocco, che ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Rocco, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie di avermi richiamato. Io volevo far presente il mio caso, che è quello di chi si addormenta tardi e si sveglia presto, quindi per me diventa un incrocio, certo. Allora, tra l'allodola e il gufo, allora è un gufo nell'addormentarsi tardi, ma si sveglia presto come un'allodola. L'importante qui è chiedere come al nostro ascoltatore come sta poi durante la giornata, cioè se quello che dorme è sufficiente per lui, quindi è in grado poi di svolgere tutte le sue attività normalmente. Rocco, al mattino lei, no, come si sente? Io sono carico, io la mattina nel giro di pochi minuti sono già attivo, mi basta poco. Il problema è appunto che con questo spostamento d'orario durante la fase, diciamo, l'inverno, questo orario che stiamo per affrontare, mi ritrovo... sveglio fino a orari assurdi durante la notte e la mattina spesso sfasato completamente, quindi alle 5 con gli occhi aperti. Ecco, questo però, il fatto stesso di, diciamo, andare a letto tardi e svegliarsi presto al mattino e di comunque riuscire ad affrontare bene la giornata, a parte il discorso del cambiamento, sì, certo, dell'orario, ecco, questo vuol dire che c'è circa un 5% della popolazione generale che è appunto caratterizzata da soggetti che sono i cosiddetti brevi dormitori, cioè quindi che non sono né gufi né allodole, ma sono soggetti che sostanzialmente possono dormire anche soltanto 4 ore, 5 ore e comunque star bene. Ecco, questi soggetti non hanno una patologia particolare, sono soggetti che hanno la fortuna in quelle 4-5 ore di ottenere tutti i vantaggi di un buon sonno e fare esattamente dal punto di vista fisiologico quello che normalmente un soggetto fa in 7-8 ore, quindi è un bene essere brevi dormitori. Ecco, la cosa importante però è questa, è riuscire a capire che il soggetto in realtà è veramente un breve dormitore e non uno privato di sonno. Ecco, questa è una differenza sostanziale, perché la privazione di sonno, professor Ferini Strambi, alla fine presenta il conto. Presenta il conto, cioè senza andare poi in dettagli che non interessano a nessuno, ma tanto per fare un esempio, il sonno è il più importante inibitore del cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress, se io riesco a dormire in maniera sufficiente riesco a inibire questo ormone e quindi metto in una condizione di riposo tutto il mio apparato cardiovascolare, e questa è una cosa molto molto importante. Un altro aspetto altrettanto importante, ci sono delle strutture cerebrali, quelle che sono impegnate nella memorizzazione, nella immagazzinare tutte le informazioni che io apprendo durante la giornata, ecco, queste strutture funzionano molto bene durante la notte ed è importante dormire bene, perché la mia memoria praticamente mentre io dormo decide cosa scartare e cosa invece mettere nel deposito della memoria stessa, quindi è un processo anche questo molto molto importante. Altra cosa, altrettanto importante, è ad esempio il rapporto con quelli che sono gli ormoni che regolano la fame. Se io dormo in maniera sufficiente, viene liberato un ormone che si chiama leptina, e la leptina mi dà il blocco allo stimolo della fame, cioè quindi io ho meno fame, mangio di meno. Tutti noi sappiamo che ad esempio di notte, se non dormiamo bene, spesso ci avviamo verso la cucina, apriamo il frigorifero e mangiamo. Ecco, perché facciamo questa cosa? Facciamo questa cosa perché viene liberato, se non dormo bene, un ormone che si chiama grelina, che mi, diciamo così, mi stimola a mangiare, quindi mi accentua lo stimolo della fame. E quindi ecco perché è importante anche quando si pensa ad esempio a fare delle diete, a cercare di pensare al benessere del proprio corpo, pensare anche che il sonno è una tappa, un aspetto molto molto importante. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori che sta arrivando al 349-238-6666. Graziano da Pescara le chiede se è possibile che dormire poco faccia male al cuore. Certamente, sì. Questo sicuramente sì, proprio per il discorso che dicevo prima, chi dorme poco e dorme male tende ad esempio ad essere iperteso, proprio perché il cortisolo non viene inibito in maniera sufficiente. Mentre Damiano da Roma ci vuole chiedere se il magnesio supremo aiuta veramente a riposare meglio, professore. Ma qui il magnesio supremo, ma questo vale anche per tante altre sostanze che a volte, ecco, in realtà per un soggetto che ha un'alimentazione normale, eccetera, non c'è bisogno in genere di supplementi particolari con delle sostanze particolari. Molte volte queste cose in realtà non fanno altro che creare una sorta di condizionamento positivo al soggetto, cioè quindi un po', potremmo dire così, un po' un effetto placebo, ma questo non deve essere assolutamente, diciamo così, tenuto in cattiva considerazione. Se una persona, assumendo una certa cosa che chiaramente non deve far male, è convinto che questo possa comunque creare dei vantaggi e quindi lo predispone molto bene al sonno, va benissimo. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza, per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. E sentiamo come riposa e se è un gufo o una allodola. Sandra ci chiama da Verona all'800240024. Benvenuta Sandra. Grazie di avermi chiamato. Io sono decisamente una allodola. Come me. Nel senso che io mi alzo, non ho problemi ad alzarmi alle 5 di mattina, come mi apro gli occhi mi viene in mente tutte le cose che devo fare durante la giornata, mi alzo, sono subito sveglia. Subito sveglia. Il mio problema è che mi sono sposata un gufo. Per cui per conciliare diciamo così i ritmi suoi con i ritmi miei, alla fine sacrifico i miei, per cui la sera sto su fino a mezzanotte magari addormentandomi biecamente davanti alla televisione, poi andando a letto e quando appunto mi sveglio 5 ore dopo sono inizialmente molto stanca e lo credo. E poi effettivamente sentivo prima il dottore che diceva dei cali di memoria, io mi sto accorgendo effettivamente che sarà anche l'età, sarà la menopausa. Sarà insomma... tutto, sarà il marito gufo, ma insomma Sandra ha bisogno di un aiuto, ma il professor Ferini Strambi resta con noi e dopo i mercati consigli a chi ha sposato un cronotipo diverso. Cuore e denari. Mobili, compagni stabili, con gambe solide, con forme utili, eppure immobili, testimoni degli eventi storici. Mobili e immobili, le nostre case, gli oggetti che le occupano, sono lì a darci il buongiorno quando ci alziamo, ad accompagnarci mentre ci addormentiamo e sono dei punti fermi nelle nostre giornate e a tutte le ore. Ma ad un certo punto può arrivare la necessità di cambiare per avere, che so, stimoli nuovi nell'ambiente che ci accoglie, oppure per necessità, per rendere tutto più comodo, tutto più funzionale. Allora, ristrutturare e riarredare può sicuramente fare bene al cuore, bello, no? Ma sappiamo che necessita anche, ahimè, di molti denari. Per fortuna però ci sono dei bonus fiscali per i lavori e per l'acquisto dei mobili, che è bene non farsi scappare, direi, e che saranno rinnovati per tutto il 2015, quindi tiriamo un sospiro di sollievo. E oggi torniamo a ricordarvi quali sono e come si fa, la domanda, chi può farla. 800 24 0024 se avete in mente di cambiare qualcosa nella vostra casa nei prossimi mesi. Se avete naturalmente dei dubbi, ne parleremo dopo il GR delle 12 con il nostro Cristiano dell'Oste del Sole 24 Ore. E svegliarsi la mattina, tutto il Allora ditemi come vi svegliate, ditemi che pennuto siete, gufo all'odola, e noi vi sveleremo come sfruttare i momenti sì e sopravvivere ai momenti no. Sembra un gioco, no? Ma in realtà è una delle straordinarie opportunità che ci viene offerta da una scienza medica che si occupa e studia i ritmi del nostro corpo. Si chiama cronobiologia, una branca della medicina che ha prodotto nuove scoperte, soprattutto anche applicazioni terapeutiche che tutelano la nostra salute e hanno a cuore il nostro benessere. Professor Ferini Strambi, lei che si occupa di sonno, ci ha insegnato e ci dice tante volte, ed è tornata a farlo anche questa mattina, che se perdiamo il ritmo i nostri sonni diventano disturbati, se andiamo in debito di sonno per una serie diversa di ragioni, insomma la nostra salute ne paga le spese. È un po' quello che succede alla nostra amica Sandra. Lei è all'odola, ha sposato un gufo, ama il gufo, allora che fa? La sera invece che andare a letto come vorrebbero le allodole, a noi piacerebbe coricarci presto, sta lì un po' sul divano, si appisola eccetera, però tira tardi. Al mattino però, essendo una allodola, bam, si sbarra l'occhio e le allodole, se si svegliano, non stanno ferme e iniziano subito a muoversi, non riescono ad addormentarsi, e quindi la povera Sandra, per amore, ma dorme poco. Alla fine che cosa si può fare? Il marito non si può cambiare. Ecco, sì, no, un po' come il lavoro, no? Bisogna tenere quello che si ha. Certamente, è appunto, perché il primo suggerimento potrebbe essere cambiare il marito, ma chiaramente di fronte all'amore difficile, no, di trovarli, però. Esattamente, esattamente. Uno. E allora, cosa fare? Questo vale per Sandra, ma vale un po' per tutti quelli che hanno un cronotipo particolare non sincronizzato con quello del proprio partner, della propria partner. Allora, l'allodola dovrebbe, se ha la necessità di stare su un po' di più alla sera, magari appunto per cercare di avere un po' di vita sociale col proprio partner, dovrebbe magari cercare di fare un piccolissimo riposino, magari verso le 3:30, 4 del pomeriggio, le 5 del pomeriggio, cioè quindi scaricare un pochino quell'esigenza di sonno che inevitabilmente viene nelle ore serali. Ecco, perché a volte basta poco, anche una mezz'oretta, per cercare poi di essere un pochino più in grado di reggere le ore dopo. Si fa uno spuntino prima, praticamente, uno spuntino di sonno, che deve essere leggero come gli spuntini, infatti mezz'ora, ha detto professore. Esattamente, esattamente, perché sennò l'allodola, se si lascia andare, poi chiaramente sprofonda nel sonno e quindi non la recuperiamo più. E d'altro canto, anche l'altro discorso vale per i gufi, cioè nel senso che, allora, noi pensiamo adesso ad un gufo che comincia a essere pimpantissimo verso le 9, le 10 di sera e che farebbe tutto, a quell'ora lui si sente in grado, il gufo, di affrontare qualunque. Perché ne parla così bene dei gufi lei? È mica gufo, professore? No, assolutamente no. Ne parlo bene perché spesso i gufi, ma poi magari ci ritorneremo, sono una fetta consistente della popolazione generale. Le allodole sono molto poche, meno del 5%, i gufi o i tendenzialmente gufi sono quasi un quarto della popolazione generale, cioè quindi il gufo sicuramente è colui che diciamo è più rappresentato nell'ambito del... Allora, succede cosa succede? Che il gufo verso una certa ora comincia a spingere sull'acceleratore, accelera, quindi fa 50.000 cose, quindi comincia a saltare da una cosa all'altra. Ecco, invece anche il gufo, ahimè, per cercare di passare dalla situazione gufo a quella, io dico sempre nei pazienti, quella del gufetto, dovrebbe verso una certa ora, verso le 11, mezzanotte, cominciare un pochino a togliere il piede dall'acceleratore e cercare di fare delle cose un pochino più rilassanti, più tranquille, perché altrimenti è chiaro che se io continuo a tenere eccitati i miei centri della veglia, poi non li spegnerò più e quindi non andrò a dormire poi alle 2:30, 3, andrò a dormire alle 3, alle 4, alle 5, proprio perché seguirò un po' quella che è la mia tendenza, diciamo così, biologica, a far tante cose a quell'ora. Quindi, voglio dire, a volte si riesce un pochino a smorzare questi atteggiamenti, non si può pensare e non si potrà mai pensare che un'allodola diventi normale, un gufo diventi normale, perché questo è una cosa contro natura, è contro quello che è l'orologio biologico interno. 800 24 00 24, abbiamo in linea con noi Andrea da Varese, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Forte e chiaro. Perfetto, buongiorno. Io sono uno strano ibrido tra l'odola. Un colibrì. Esatto, perché faccio un sonno polifase. Quindi in breve decido volontariamente di spezzare in diverse parti della giornata. Anche la sua voce rimane spezzata. Lei fa praticamente, scusi, abbiamo perso qualche momento di... Ah, sì. Ecco, allora, lei, Andrea, dice che è una specie di colibrì. Cosa fa con il suo sonno? Lo spezza di proposito? Lo spezzo in diverse parti della giornata di proposito. È un sonno, viene chiamato polifasico. Sì. E, l'ho fatto per guadagnare del tempo, per nutrire, diciamo, le mie passioni, e devo dire che da quando lo faccio mi trovo molto bene, anche fisicamente, non mi alzo più, magari con la schiena che mi fa male. Ma lei alla notte quante ore dorme, quindi, facendo tutte queste interruzioni, questi spuntini di sonno? Ma adesso brevemente, in realtà di questo sonno ci sono diverse modalità. Io faccio quella più soft, che prevede di dormire 4 ore o 4 ore e mezza di notte, e poi un'ora o un'ora e mezza durante il pomeriggio, insomma. E si trova bene. E come vede, come le diete, Andrea, ce ne sono tante diverse. Professor Ferini Strambi, 4 ore di notte, poi un'ora e mezza di pisolino di pennica al pomeriggio. Ma allora, in realtà di per sé il sonno polifasico non è qualcosa che deve essere, diciamo così, data come suggerimento, perché è chiaro, ci sono dei soggetti come Andrea che riesce a seguire questa modalità, ma non è una modalità diciamo che può essere sostenuta da tutti, primo aspetto, e l'altro aspetto che comunque sia frammentare il sonno in due pezzi, diciamo così, più o meno importanti nel corso delle 24 ore, non dà poi i grossi benefici che invece dà un sonno normale, completo, monofasico, che si sviluppa soltanto nel corso delle ore notturne. È chiaro che a volte questa cosa lo si fa per esigenza, diceva anche l'ascoltatore, lui lo fa perché ha tanti interessi, tante cose da fare, quindi si è organizzato in questa maniera. Chi ad esempio va in barca a vela, che fa le traversate transoceaniche, anche lì lo fa questo sonno polifasico, ma chiaramente legato a problemi pratici, perché non può permettersi il lusso di dormire continuativamente 7-8 ore, però voglio dire, di per sé sicuramente, al di là del fatto che uno può farlo per esigenze particolari, non è comunque un sonno che può essere consigliato a tutti, perché non tutti sono in grado di sostenere una cosa di questo genere. Allora, professore, l'abbiamo anticipato, cambieremo l'ora, ma c'è chi per lavoro cambia il giorno per la notte. Secondo gli ultimi studi epidemiologici, almeno un lavoratore su tre non fa più il classico orario 9-17, e oggi più del 25% dei lavoratori fa una rotazione su turni che comprendono anche le notti. Da qualche anno la sindrome del lavoro turnista è entrata anche nella classificazione delle patologie lavorative, e questa sindrome, secondo i dati, colpisce il 10-15% dei lavoratori a turno e può causare, tra gli effetti negativi, irrequietezza, disturbi dell'umore, insonnia, ma anche disturbi dell'apparato digerente e della sfera sessuale. Professor Ferini Strambi, quali sono le attenzioni e le precauzioni alla luce anche delle numerose ricerche che possiamo suggerire a chi degli ascoltatori di Cuore Denari ci sta scrivendo di occuparci anche dei problemi dei turnisti? Quello dei turisti è un problema nel senso che esiste la regola del 33-33-33, cioè 33% della popolazione che fa i turni non resiste, cioè quindi dura magari una settimana, un mese, due mesi e poi molla, sì, perché proprio non è in grado, non ce la fa. Un altro 33% è in grado di adattarsi bene al lavoro a turni, e in genere questi sono soprattutto quelli che hanno una tendenza ad essere diciamo così goofy, certo, perché i goofy si adattano bene a fare il lavoro notturno. E invece poi c'è un 33%, un altro terzo, che fa il lavoro a turni, che si adatta bene o male, ma ha delle conseguenze. Le conseguenze sono ad esempio il problema dell'ipertensione arteriosa o dei, come citava lei, dei disturbi dell'apparato digerente. Ma questo perché? Perché in realtà chi fa i lavori a turno e non è diciamo così molto gufo come cronotipo, in realtà poi fa il sonno di recupero di giorno. Quel sonno di recupero di giorno non è un vero e proprio sonno di recupero. Citavo prima il discorso del sonno che inibisce il cortisolo, sì, ma ad esempio il turnista notturno che poi dorme di giorno al mattino, quando fa quel sonno al mattino, non è in grado con quel sonno al mattino di inibire in maniera diciamo molto molto efficace il cortisolo. Perché il sonno, ecco, mi scusi professore, vuol dire che il sonno che noi facciamo di giorno non ha gli stessi effetti di quelli che facciamo di notte. Non è paragonabile a quello che si fa nel corso della notte. E quindi, ripeto, non a caso chi fa i turni di lavoro notturno ha un rischio 2,5 volte superiore a chi non li fa di sviluppare ipertensione arteriosa. E quindi abbiamo tra noi Antonio che ci chiama dalla provincia di Venezia, che risentiamo subito dopo con la sua storia. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Torneremo a parlare di turni e poi anche di attività fisica, perché le giornate si accorciano, il divano mette un po' le braccia. Vediamo che cosa possiamo fare. Cuore e denari. E siamo tornati insieme. Il cambio dell'ora, qualche disagio possibile. 800 24 00 24. Antonio, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Venezia, turnista. Sì, sono un infermiere, quindi, e quindi? Quindi si può immaginare cosa ha fatto. Il classico turno, due mattine, due pomeriggi e una notte. E niente, quindi sono circa il gufo durante tutta la settimana. Professor Ferini Strambi. Ma quello dei turni, appunto, la cosa importante, voglio dire, se pensiamo a un soggetto che è gufo, paradossalmente sarebbe meglio per un gufo non fare tanto una turnazione continua, ma fare prevalentemente i turni notturni. Quindi ecco che il cronotipo dovrebbe essere tenuto in considerazione quando anche si considera la programmazione a turni di lavoro. Se si devono però necessariamente fare dei turni, è molto meglio fare quelli a turnazione rapida, cioè quindi cambiare abbastanza, con un ritmo abbastanza diciamo così, continuo i turni, proprio perché questo altrimenti andrebbe a interferire con il riadattamento dell'orologio biologico interno rispetto al turno. Cioè quindi, in altri termini, se uno fa una tornazione, ecco, mattino, pomeriggio, notte, e lo cambia in continuazione, è molto meglio piuttosto che fare una settimana tutta la mattina, una settimana tutti i pomeriggi, una settimana tutte le notti. Quindi turni più rapidi, lavoro permettendo, il evitare di riposare a lungo durante il giorno, mi sembra di capire che questa possiamo dare come seconda indicazione, soprattutto perché la qualità del sonno della notte non è uguale a quella del giorno. Quali altre indicazioni si possono dare alle persone che fanno lavori a turni per ridurre un po' questi effetti collaterali e che cambiare continuamente l'orario di lavoro comporta? Un'altra cosa molto semplice, molto banale, che si può seguire è questa: quando ad esempio il soggetto finisce il turno di lavoro notturno e va a casa per andare finalmente un po' a riposare, dovrebbe ad esempio indossare degli occhiali scuri, cioè evitare un contatto con la luce eccessiva, perché tutti noi sappiamo che purtroppo tanta luce va a inibire il rilascio di melatonina, e se un soggetto ha fatto il turno notturno e si sta recando, torna a casa per andare a dormire, ecco, evitare l'esposizione eccessiva alla luce, così in questa maniera appena torna a casa si addormenterà più facilmente. Perché poi qual è il problema reale? Il problema reale, ad esempio questo citava l'ascoltatore che fa l'infermiere, ma ad esempio anche noi medici sappiamo benissimo questa cosa: se un soggetto è normale, cioè non è né gufo né allodo, è un soggetto normale, se uno fa il turno notturno e poi al mattino dopo sì, è molto stanco, vorrebbe andare a dormire, ma d'altro canto però rispetto a quello che è il proprio ritmo biologico, al mattino sonno uno non ce l'ha. E quindi c'è una sorta di contrasto tra la necessità di dormire perché uno è stato sveglio, certo, ma quello che è l'impostazione del ritmo biologico. Ecco perché quando si finisce il turno notturno e si torna a casa è bene non inondarsi di luce, ma cercare di stare un po' al buio. Un ascoltatore ci sta chiedendo al 349-238-6666, così leggiamo anche i messaggi, se c'è un tipo di alimentazione particolare che può essere utile a chi fa i turni. Magari potrebbe essere utile evitare alcuni alimenti, preferirne altri, professore. Non bisogna eccedere con la quantità, non c'è un cibo piuttosto che un altro che può facilitare la cosa. Chi fa i turni generalmente sa benissimo che mangia nel corso della notte, del turno notturno, ma questo perché non dormendo non ha il rilascio di leptina e quindi è più portato a mangiare. Ecco, la cosa importante però è non esagerare dal punto di vista quantitativo, ma cercare sempre comunque di fare dei pasti abbastanza leggeri. Professor Ferini Strambi, che impatto ha sull'umore questo cambiare continuamente il ritmo? Ma sull'umore, ecco, teniamo conto, e qui ci possiamo ricollegare anche al discorso dell'arrivo dell'ora del ritorno, dell'ora solare. La luce ha una, diciamo, sicuramente un impatto molto molto importante. E quindi quando noi pensiamo anche a quelli che possono essere dei sistemi, tra virgolette, più o meno fisiologici per aumentare il nostro tono dell'umore, la nostra sensazione di benessere. Ecco, teniamo conto che più siamo esposti alla luce durante appunto le condizioni di veglia, e meglio è, perché questo va ad aumentare la serotonina, i livelli di serotonina. È importante questo perché, ad esempio, col ritorno dell'ora solare, purtroppo aumenteranno l'umore, le ore, certo, le ore buie, e quindi questo può avere un impatto negativo sull'umore. Io riporto sempre un bellissimo esperimento condotto qui dai colleghi psichiatri del mio ospedale, dove sono stati confrontati i dati delle giornate di ricovero dei pazienti ricoverati nell'ala ovest rispetto all'ala est dell'ospedale. È incredibile come i soggetti che erano più esposti alla luce durante il ricovero ospedaliero avevano una degenza media inferiore rispetto a quelli che erano ricoverati in stanze più buie. E quindi, certo, questa è una dimostrazione di come la luce è un importante stimolo per la nostra serotonina, e quindi un'importante apertura verso il benessere e il buon umore. E questo, professor Ferini Strambi, riguarda sia i gufi sia le allodole. Certamente, perché con la luce che diventa le giornate sempre più corte, il nostro umore insomma diventa un pochino più scuro, un pochino più tristanzuolo, e anche la voglia di muoversi cala. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti, e allora muoviti, muoviti. Le giornate si accorciano, abbiamo meno luce, il divano mette le braccia, insomma un attimo cedere alla tentazione. Noi siamo particolarmente predisposti alla pigrizia, lo ricorda come ogni anno anche la ricerca Censis, che dice 24 milioni di sedentari, il nostro paese in coda all'Europa, e chi fa esercizio si improvvisa. Adesso forse abbiamo una ragione in più per stenderci sul divano, insomma è un po' buio, le giornate sono brevi, chi ha voglia di muoversi? Ma il dottor Massimo Gualerzi, che è in linea con noi, ci invita come sempre a farlo. Tra l'altro, muovendoci riusciamo anche a far salire un po' il tono del nostro umore. Intanto buongiorno al dottor Gualerzi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Eccoci qua, dottor Gualerzi. Insomma, sembra che noi italiani siamo campioni da sport da divano. Adesso diventa anche più buio, e che fare? Come possiamo darci una mossa? In realtà non tutti i mali vengono per nocera, nel senso che sempre l'attività fisica è guidata, sì, dagli ormoni. E quindi diciamo che nelle ore serali, quindi quelle con meno luce, siamo più avanti. Sì. No, io volevo chiederle se si sposta con noi, fa un po' di esercizio fisico con noi e passa dopo il GR. Salutiamo il professor Ferini Strambi, ringraziandolo per essere stato con noi, grazie. No, grazie a voi, grazie a voi. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme. Come anticipato, la seconda parte del programma è dedicato al bonus case, al bonus mobili, sono il grande cavallo di battaglia di Cuore Denari. Più ne parliamo, più voi ci fate domande, sembrate interessati. È tornato a trovarci Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, con cui recupereremo tutte le informazioni utili per avere la situazione chiara sotto controllo. Cristiano, grazie. Grazie a te, buongiorno. Ci sono già gli ascoltatori in linea all'800 24 00 24, ma in linea avevamo lasciato anche il dottor Gualerzi, che noi intanto parliamo di mobili, alcuni li acquisteranno, ma lei ci dia dei consigli per essere meno fermi sul nostro divano, per muoverci un po'. Gufi all'odole, con il cambio dell'ora la pigrizia aumenta. Sì, dicevamo che comunque non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che le ore più, diciamo che abbiamo più di buio, aiutano a fare le attività di resistenza, quindi per chi è intenzionato a mettere su un po' di massa, quindi un po' di muscoli, e prepararsi anche per la prossima stagione, deve sfruttare questi mesi, perché l'organismo secerne appunto degli ormoni che ci predispongono ad acquisire massa magra, quindi ad acquisire più muscoli. Quindi allenarsi. Altro che la pancetta invernale. Infatti. Quindi questo è il momento ideale per farsi muscoli, quando ci alleniamo, e i gufi e le allodole hanno dei tempi diversi? Ma sicuramente i gufi saranno più avvantaggiati, perché sotto sera è più facile mettere massa magra, quindi è più facile allenarsi e predisposto l'allenamento di potenza. mentre le allodole hanno più, diciamo, inclinazione a fare attività aerobica la mattina, porta, diciamo, dei grandi vantaggi se ci si allena perché dimagriamo, quindi allenarsi la mattina come gesto dimagrante, allenarsi la sera per potenziare e mettere su massa magra. Non abbiamo più scuse, dottor Gualerzi. No, direi proprio di no, anche perché poi alla fine l'importante è muoversi, quindi queste sono solo delle indicazioni, poi più sport e più movimento facciamo, meglio è. Grazie al dottor Gualerzi per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata. E noi parliamo dei nostri bonus che sono confermati dalla legge di stabilità. È confermato, è chiaro, ecco, Cristiano? A che punto siamo? Perché al momento la legge di stabilità, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, è stata firmata dal Presidente della Repubblica, però attenzione, è stato firmato il disegno di legge, quindi quello che il governo adesso manderà al Parlamento per l'approvazione definitiva che avverrà nelle prossime settimane. Quindi stiamo parlando per il momento di una proposta. Diciamo però che è una proposta su cui concordano tutti. Possiamo mettere sul cuore, insomma. Direi di sì. E la proposta prevede di prolungare per 12 mesi la detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia, quella del 65% per il risparmio energetico e quella del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Tutte e tre vanno fino al 31 dicembre del 2015. Parlando di privati, diciamo anche questa informazione, la cosa importante è che poi entro la data limite, appunto 31 dicembre 2015, venga fatto il bonifico, quello è l'elemento decisivo, il bonifico di pagamento. Allora Cristiano, vogliamo fare una sorta di specchietto, come quello che facevamo quando andavamo a scuola, no? Per ricapitolare un po' tutte le cose. Allora ripercorriamo il funzionamento di questi bonus, cominciando da quelli per i lavori di ristrutturazione tradizionali. In questo caso, come hai anticipato, è previsto il 50% di detrazione IRPEF. Ricordiamo però come si richiede, come ci viene dato questo bonus che è spalmato negli anni e puntualizziamo cosa si intende per lavori di ristrutturazione tradizionali, così capiamo per bene. Certo, la prima distinzione importante da fare è tra manutenzione ordinaria e straordinaria. È una categoria edilizia, non è facilissimo averci dimestichezza, però la cosa importante da capire è che se io sto facendo una manutenzione ordinaria posso avere la detrazione solo se sto intervenendo su parti comuni condominiali, per intenderci l'androne, le scale e così via. All'interno delle singole abitazioni i lavori devono essere come minimo di manutenzione straordinaria, che vuol dire ad esempio cambiare le finestre, spostare una parete, rifare completamente il bagno toccando anche le tubature e via discorrendo. Insomma, lavoroni. Lavori di un certo impatto, ecco, non serve necessariamente fare poi cose murarie molto pesanti, però bisogna intervenire. Ad esempio, per dire un lavoro che in termini di muratura non incide molto, è il rifacimento dell'impianto elettrico. Siccome stiamo parlando di impiantistica, di sostituzione di impianti, quella è manutenzione straordinaria. Attenzione invece che per esempio il cambio dei pavimenti, che è la semplice sostituzione delle piastrelle, da solo non vale come manutenzione straordinaria, ma è ordinaria. Il pavimento aggiustare anche qualche tubo. O toccare degli impianti, oppure toccare le pareti, spostarle e così via. Questo per capire qual è la grande distinzione dei lavori. Poi il meccanismo negli anni è stato molto semplificato. Adesso di fatto bisogna fare poche cose per poter avere la detrazione. La prima è essere in regola con i permessi urbanistici ed edilizi. Sì. Quindi se ci vuole una scia, presentare la scia in comune, se ci vuole una comunicazione di inizio lavori, presentare quella, eccetera. Tra l'altro ricordiamo che su questo punto il decreto Sblocca Italia, che ha avuto ieri la fiducia alla Camera, cambia ancora il livello dei permessi. La sostanza però è che è ben difficile poter fare un lavoro di questo tipo senza rivolgersi a un geometra o a un altro tecnico. Okay. Insomma, quindi i permessi poi. Esatto. Poi la seconda cosa è farsi fare per bene tutte le fatture dalle imprese e pagare con bonifico, cosiddetto bonifico tracciabile o bonifico parlante, cioè quel particolare modello di bonifico che contiene il codice fiscale del beneficiario, cioè di chi sta facendo i lavori, la partita IVA dell'impresa che li sta facendo e la causale che consiste di fatto nell'indicazione degli estremi della legge. Poi per la causale chi fa il bonifico online se la trova già belle pronta da un menu a tendina, altrimenti bisogna indicare appunto il riferimento della norma. Fatto questo, più o meno gli adempimenti ci sono tutti, nel senso che il lavoro potrebbe essere finito così. Se non abbiamo fatto delle opere particolari, non dobbiamo aggiornare il catasto, non abbiamo comunicazioni alla ASL che scattano solo oltre un certo livello, quindi io potrei aver finito i miei lavori. Immaginiamo di pagarli adesso, quindi prima di fine anno. Nella dichiarazione dei redditi che presenterò nel 2015 vado a scontare la prima rata di detrazione, che di fatto è proprio uno sconto sull'imposta che devo pagare al fisco. Quindi bisogna stare attenti, perché per esempio se ci fosse un contribuente che è già a basso reddito e quindi non ha imposte o ne ha troppo poche, parte della detrazione potrebbe anche andare sprecata. La detrazione, abbiamo detto prima, è del 50%, va divisa in 10 rate annuali e la spesa massima su cui calcolare per quanto riguarda la ristrutturazione è 96.000 euro. Ecco, e qua abbiamo già la spesa massima. Andiamo al 65% per i lavori che permettono di attuare un risparmio energetico. Le modalità per ottenerli sono identiche, vero? Sì, diciamo con che qualche... con una piccola precisazione in più, nel senso che qui mentre il 50% sui lavori è libero come catalogo di interventi, qui abbiamo quattro tipologie di lavori che possono avere il 65% e devo, mentre li vado a eseguire, rispettare determinate specifiche tecniche. Le ricordiamo? Certamente. Allora, sono la sostituzione delle finestre. Sì. E qui, per esempio, si può fare subito l'esempio importante. Se io cambio le finestre, ne metto di un altro tipo, ho normalmente il 50%. Se però le finestre che io metto hanno dei requisiti di isolamento, così come richiesti dalla normativa, posso scatta avere... Scatta il 65%, esatto, vedi? Esatto, scatta quel 15% di detrazione in più. Poi l'altro tipo di intervento è la sostituzione delle caldaie con altre caldaie a condensazione. Anche qui, se metto una caldaia normale ho come minimo il 50%, se metto una caldaia a condensazione con i requisiti previsti dalla legge ho il 65%. E poi abbiamo la coibentazione, quindi l'isolamento, i cappotti termici delle pareti, dei tetti e l'installazione dei pannelli solari. Ognuno di questi lavori ha un limite massimo di spesa differenziato. E poi c'è anche quel tipo di intervento che si chiama riqualificazione globale, che è un intervento in cui io vado a fare un po' di tutti questi lavori insieme e lì ho un altro limite di spesa ancora. Adesso non riusciamo a entrare nel dettaglio no, di tutti. No, perché vogliamo dare un quadro un po' preciso dei vari bonus per lasciare poi lo spazio alle domande degli ascoltatori. Ti chiedo solo i mobili, spesso quando ristrutturiamo casa rinnoviamo anche l'arredamento, il bonus è previsto visto solo in questo caso, cioè dobbiamo ristrutturare e possiamo prendere i mobili, giusto? Non esattamente. È che mi sono stufata del soggiorno di casa e posso pensare la legge... di avere il bonus. No, infatti la legge dice che si può avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici solo se la si abbina al 50% edilizio, quindi attenzione, non al 65%, quindi se io cambio la caldaia e beneficio del 50% posso avere il bonus mobili, se cambio la caldaia e beneficio del 65% no. Questa è una quindi uno differenza. Deve un po' e sì. Lì dovrà scegliere. E poi per i mobili, importante, la detrazione è sempre del 50%, sempre divisa in 10 anni, ma il limite di spesa su cui calcolarla in questo caso è 10.000 euro. Allora andiamo anche agli elettrodomestici. Vogliamo? Sì, certamente. Una puntualizzazione sugli elettrodomestici. Allora, gli elettrodomestici, perché stanno arrivando tanti messaggi dal frigorifero. Sì, sì, alla lavatrice. Allora, il concetto è quello di grandi elettrodomestici, dice la legge, quindi devono essere appunto lavatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie. Ecco, il frullatore no. Ovviamente il frullatore no, la televisione no, anche perché c'era una vecchia versione di questa detrazione qualche anno fa che menzionava espressamente anche TV e computer. Adesso già il fatto che non li menzioni più vuol dire che non sono agevolati. Devono avere un requisito di efficienza che deve essere almeno di classe A oppure A+ per i forni. E detto questo non ci sono altre particolari complicazioni, nel senso che anche qui vale la stessa procedura che abbiamo detto per il 50% edilizio, quindi devo pagare con bonifico. L'unica cosa che non abbiamo detto prima del 65% è che in più per la detrazione sul risparmio energetico entro 90 giorni da fine lavori va inviata la documentazione all'Enea. È un passaggio burocratico in più, però importante. Allora, e adesso 800 24 00 24 passiamo la palla ai nostri ascoltatori con Arianna che ci chiama dalla provincia di Venezia, Stefano da Padova e Rosa dalla provincia di Pavia. Arianna, buongiorno. Parli lei così Cristiano si riposa un attimo. Sì. Gli do anche un po' d'acqua. Vada Arianna. Sì, io volevo sapere se l'importo della spesa dell'arredo degli immobili ristrutturati è proporzionale all'importo sostenuto per la ristrutturazione. Cioè, se io spendo 3.000 euro per cambiare la caldaia e usufruisco del 50%, posso detrarmi i 10.000 euro che spendo per l'acquisto della cucina? Allora, sì, è una bella domanda. Perché c'era stato un emendamento che poi però è stato ritirato, parliamo ormai di quasi un anno fa, che vincolava le due spese. In realtà no, non c'è questo limite, quindi io posso spendere 2.000 euro per la ristrutturazione edilizia, magari perché sto rifacendo l'impianto elettrico di casa, e spendere 10.000 euro per i mobili. La legge non dice, non pone limiti. E c'è da dire che addirittura nel disegno di legge di stabilità, quello che prevede la proroga, c'è un inciso che non è chiarissimo nella lettura, però sembra proprio voler confermare, almeno è una delle letture possibili, sembra voler confermare che non c'è questa limitazione, quindi la nostra ascoltatrice può spendere per i mobili più di quanto spenda per i lavori. Andiamo a Stefano che ci chiama da Padova, buongiorno, con una nuova casa. Buongiorno. Stefano, buongiorno. Facendo l'acquisto della mia prima casa insieme alla mia compagna e ci troviamo ad affrontare alcune spese quali il rifacimento dei bagni, l'arredamento della casa e delle sistemazioni tra la parte elettrica e idraulica. Le varie detrazioni a cui possiamo accedere che sono dilazionate poi come sulle 10 rate annuali. Sì. Noi possiamo presentare sulla spesa totale o dobbiamo spulciarle una a una, fare delle carte specifiche per ognuna? Allora, un unico foglione, Cristiano, o tanti fogliettini? Ma allora, diciamo questo, che quello che deve fare il contribuente è conservarsi per bene le singole fatture. Immaginiamo tre fatture da 5.000 euro l'una. Poi andrà in dichiarazione dei redditi a indicare la detrazione calcolata sul totale di tutte le spese, anche perché c'è un unico rigo della dichiarazione dei redditi in cui si mette tutta la detrazione del 50% per un intervento eseguito in un anno in una stessa casa. Poi se avrò del 65%, cioè un altro tipo di detrazione, compilerò il rigo relativo al 65%. Però indubbiamente se io per ristrutturare una casa ho la fattura dell'idraulico, la fattura di acconto del muratore, la fattura di saldo del muratore, tutte e tre le metto insieme, faccio il totale, su quel totale calcolo la detrazione perché è un unico intervento di manutenzione straordinaria dell'appartamento. Questo penso fosse questa la domanda. Andiamo a Rosa, che ci chiama dalla provincia di Pavia, così abbiamo la possibilità di leggere qualche messaggio. Rosa, benvenuta e buongiorno. Buongiorno. Cosa cambierà la bella Rosa? La camera. Non le piace più, Rosa. Insomma, è 43 anni che sono sposata, vabbè. Dai. Volevo chiedere, io non ristrutturando niente... Forse, infatti io, mi sembra di aver capito, adesso sentendo voi parlare, non posso avere nessuna agevolazione dalla spesa della camera. Vedi, Rosa, no, sei già risposta da sola. Direi di no, e tra l'altro bisogna fare attenzione perché nei mesi scorsi un problema che si era posto era quello di chi diceva ma io mi limito a cambiare la serratura di casa, che comunque è un intervento agevolato al 50%, perché è un atto, diciamo, è uno di quegli interventi diretti a migliorare la sicurezza dell'immobile, e poi gli abbino tutta la detrazione dei mobili. Ecco, queste cose sono state bocciate dalle entrate che insomma pretendono che l'intervento sia una manutenzione straordinaria e in questo caso il solo cambio della serratura non vi può rientrare. E quindi, insomma, Rosa, o fa un altro lavorino, oppure si... No? Eh sì, o fa un intervento che sia appunto quantomeno di manutenzione straordinaria, che può essere anche la sostituzione dei serramenti, insomma, non è che serve per forza demolire dei muri di casa, però se non c'è l'occasione di fare un intervento perché la casa non ne ha bisogno, in questo caso non scatta neppure la detrazione sui mobili. Allora, Fabrizio, si è comprato una termostufa legna, Cristiano, che è certificata con efficienza superiore al 75%, vuole sapere che tipo di detrazione può avere. Allora, di per sé sull'acquisto della stufa nessuna, perché stiamo parlando di acquisto e non di sostituzione, altrimenti a certe condizioni avrebbe potuto beneficiare non del 65%, perché lì parliamo di caldaia e condensazione, ma di un altro incentivo poco conosciuto e poco utilizzato che è il conto termico, per il quale però va presentata in via, diciamo, prima di procedere una domanda telematica al GSE, che è l'ente che li gestisce, e credo che non l'abbia fatto, quindi in questo caso penso che non possa più beneficiare di nulla, a meno che quella stufa non sia andata a sostituire una caldaia, e allora magari si può sostenere che rientra nel 50%, però dovrebbe aver comunque pagato con bonifico. Senti un po', Cristiano, cosa ci scrive un ascoltatore, un po' più... Allora, con la dicitura fine lavori si intende la fine del lavoro specifico, impianto, caldaio o altro, o la fine lavori di cui si dà comunicazione in comune? Bisogna vedere per cosa lo sta chiedendo, perché se lo chiede per dire quando devo mandare la comunicazione all'Enea, quella dei 90 giorni di cui parlavamo prima, lì l'Enea ha chiarito che loro intendono per fine lavori il collaudo, se è un prodotto soggetto a collaudo, tipo una caldaia, viceversa se sono le finestre che non si collaudano, si intende per fine lavori la consegna da parte la fine installazione, diciamo così, la consegna dell'opera finita. Esattamente. Se invece lo sta chiedendo a fini edilizi, allora vale il momento in cui comunico la fine lavori al comune. È un atto che in genere fa il geometra o il tecnico che segue i lavori, che però ai fini della nostra detrazione la fine lavori edilizia non interessa, nel senso che, come abbiamo detto prima, conta la data del bonifico, quindi se io ho la fine lavori a gennaio 2015 ma il bonifico è datato 20 dicembre 2014, la detrazione vale sull'anno d'imposta 2014 e la detraggo già in dichiarazione dei redditi che presento la prossima primavera, o la prossima estate, insomma, comunque che quella che presento nel 2015 per l'anno d'imposta 2014. Tutto chiaro. Allora, io voglio leggerti i messaggi, Cristiano, che tu arrossirai un po', ma quanto è bravo e semplice da capire quest'uomo che parla con Nicoletta. Bene, grazie. E poi altri ascoltatori ci chiedono dove possiamo trovare le informazioni spiegate così bene. Innanzitutto sul Sole. Beh, perché questo sì, lui è venuto proprio direttamente giù dal Sole, 24 ore naturalmente, non sole. E poi naturalmente Marco Lombardo e Laura Vanossi faranno un taglietto, potrete riascoltarle anche a cuore denari. Cristiano, che dire, torna presto. Bene, grazie molte. Buona giornata, ai gufi e alle allodole. Cuore e denari.